Riprendiamo il nostro viaggio a chilometro zero, precisamente da Villa Ferrigni, sui camaldoli di Torre del Greco, la stessa abitata da Giacomo Leopardi nella primavera del 1836, dove scrisse la sua penultima lirica, La Ginestra. Percorriamo il Miglio d'Oro. Intorno a noi il mare, il Vesuvio e una natura rigogliosa ci propongono un paesaggio naturalistico di notevole bellezza. Passeggiamo tra le ville patrizie, Villa Campolieto, il parco sul mare di Villa Favorita. Siamo nel comune di Ercolano. Qui possiamo visitare l'antica Ercolaneum, seppellita dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. insieme a Pompei, e dirigerci alla scoperta dello Sterminator Vesevo. Passeggiare tra gli scavi di Ercolano e Pompei è come fare un viaggio nel tempo. Si ha la possibilità di entrare nelle case, nelle botteghe, trovarci gli oggetti utilizzati, i forni per il pane. La coltre di cenere, lava e lapilli, nel distruggere ogni forma di vita, in poche ore ha fermato il tempo, posandosi sulle cose e sulle persone. La descrizione dettagliata del disastro è arrivata ai giorni nostri grazie a Plinio il Giovane, che 25 anni dopo l'eruzione descrisse l'evento in due lettere inviate allo storico Tacito. Quelle lettere, infatti, sono considerato il primo articolo giornalistico di un disastro naturale. Altra testimonianza tangibile della tragedia fu la scoperta, durante uno scavo nel 1922 a Pompei, di corpi degli abitanti della città. Fu infatti fatto arrivare del gesso liquido e, una volta sterrati, vennero alle luci i resti di tre bambini e dei loro genitori. Gli scavi continuarono ed altri corpi nel tempo sono stati riportati alla luce. Quei calchi mi hanno sempre impressionato. Ricordo una volta di averli visitati con la scuola. L'insegnante d'arte ci diede il compito di riportarne l'immagine a matita sul nostro blocco da disegno. Avevamo trascorso ore ad osservare quei corpi, quei volti, cercando di riportare la forma contorta su quel foglio di carta. Il Vesuvio. Questo gigante nero mi ha insegnato la precarietà della vita. Da bambina era lì, di fronte a me, ogni mattina quando varcavo l'uscio di casa di mia nonna. Era nei giochi con gli altri bambini quando, all'ora del tramonto, l'ora del rientro a casa, correvamo a piedi nudi con lui al nostro fianco, cercando di superarlo. E lui, immobile, immenso, inquietante. Gli adulti lo usavano da monito per farci smettere di fare i capricci. «Non chiagnere, ca si scete non bastano tutte lacrime a stutarla. Non piangere, perché se si sveglia non bastano tutte le lacrime a spegnerlo». Questo monito derivò da un'antica credenza popolare che portava la popolazione a credere che la terra cominciasse a tremare e i vulcani sputassero fuoco quando gli dei si arrabbiavano. Il Vesuvio ha sempre attirato l'attenzione di viaggiatori, letterati, artisti di ogni tipo che durante il Grand Tour da tutta l'Europa giungevano in questa terra per seguire le orme degli scrittori antichi come Virgilio, Orazio, Seneca. Nessuno lascia Napoli senza essere asceso sulle pendici del Vesuvio, per provare delle emozioni forti e per osservare il potere distruttivo del gigante nero. Goethe, Hamilton, Françoise René de Chateaubriand, Stendhal, considerano il Vesuvio la loro fonte di ispirazione. Leopardi lo abbiamo già citato, e anche Curzio Maltese, che scrisse: «Napoli è la città più misteriosa d'Europa. È la sola città del mondo antico che non sia perita come Ilio, come Ninive, come Babilonia. È la sola città del mondo che non è affondata nell'immane naufragio della civiltà antica. Napoli è una Pompei che non è mai stata sepolta. Non è una città, è un mondo».